30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Nell'Africa subsahariana una donna su 16 muore durante la gravidanza o durante il parto. In Europa accade a una donna su 30.000. Il 70% delle donne africane non ha accesso a cure prenatali e metà delle nascite avvengono in casa senza assistenza medica, con picchi che arrivano al 95% in Sudan. Per questo 200.000 donne muoiono ogni anno per la mancanza di assistenza medica di base e di uno staff competente in grado di fornirla, e più di 1,5 milioni di bambini africani perdono ogni anno la loro mamma. Buonasera cari ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca. Si chiama Stand Up for African Mothers, la campagna lanciata da AMREF per aumentare la consapevolezza sul ruolo della donna per la salute della comunità. Formare 15.000 ostetriche prima del 2015 per contribuire a ridurre del 25% la mortalità materna nell'Africa subsahariana. Testimonial di questa campagna è Saba Anglana, cantante, attrice, italo-somala, figlia di padre italiano, mamma somala, emigrata dall'Ogaden etiope, insomma un viaggio già nella sua storia personale. Questa sera con noi, bentornata a Radio 24, Saba. Buonasera a tutti, grazie. Allora, parlavo subito di viaggi, perché è vero che questa campagna si lega nel tuo ruolo appunto di testimonial a un viaggio che ti ha portato attraverso l'Africa orientale, attraverso il Kenya, e che segna tutto il percorso di questo nuovo disco. Ti chiederei allora di cominciare proprio da qui, dal racconto di questo disco che è un viaggio che è un disco. Sì, perché il viaggio nutre da sempre un po' i miei lavori in musica. Nella fattispecie un anno fa siamo stati Fabio Barovero ed io, che è il produttore e coautore di questi lavori, in Kenya, invitati da AMREF. Abbiamo girato a lungo per circa 6 settimane visitando i villaggi, le comunità che AMREF assiste da ormai più di 50 anni con un'opera di cooperazione e soprattutto rivolta al miglioramento delle condizioni dei villaggi in merito all'acqua, alla sanità, che sono due cose comunque, alla salute, sono due cose molto molto vicine e dipendono l'una dall'altra. Quindi questo viaggio è l'incontro di molti, io li chiamo personaggi perché hanno un'individualità molto forte e mi hanno consegnato delle storie molto belle che dal particolare possono sicuramente diventare storie universali, che riguardano proprio la sfida di ogni essere umano, le difficoltà che incontra. Con tutto questo materiale diciamo che ha generato, ecco, il disco che dopo un anno ha visto la luce e proprio poi è stato tenuto battesimo proprio a Nairobi, dove ho performato con 3 concerti circa 2 settimane fa, infatti sono appena tornata dal Kenya, ed è stato molto bello ritornare lì e restituire in musica quello che mi è stato regalato dal punto di vista delle storie. Per un artista è molto importante attingere dalle storie, credo, sia storie personali che quelle degli altri. Storie di giovani, storie di rapper, c'è questo fattore molto presente anche come diciamo, direi quasi inevitabile in una grande città come Nairobi, storie naturalmente di molte donne, al di là di uno dei brani, appunto quello dedicato alle Eastern African Women, alle donne dell'Africa orientale, in cui racconti e dici: non è possibile morire per dare la vita. Ecco, questo mi sembra anche uno dei passaggi chiave di tutta questa campagna, di tutto questo impegno. Infatti il brano a cui tu fai riferimento è Heskenna, che significa la nostra canzone, tradotto in somalo. Io ho realizzato questo brano con un ensemble femminile, un gruppo vocale femminile che si chiamano i Gargar. Vengono da Garissa, che è un paese, un villaggio a 200-300 chilometri dal confine con Mogadiscio, con la Somalia, ed è un gruppo femminile somalo, cioè di donne somale, che quindi parlano e cantano la lingua che anch'io conosco. Quindi con loro abbiamo realizzato questo brano, anche perché loro hanno fondato una società fortemente declinata al femminile, cioè una società matriarcale, molto, anche molto indipendente, cosa molto difficile in un'Africa che anch'essa vive un maschilismo molto forte, nonostante il fatto che la donna sia al centro, sia un po' il volano di tutta la società e soprattutto della famiglia. Sì, adatta molto bene questo brano alla campagna che rappresento orgogliosamente, perché parla appunto, sottolinea come le donne molto spesso in Africa, non avendo un'assistenza sanitaria anche basilare, no? Per partorire, certe volte perdono la loro vita, rendono orfani i propri bambini oppure perdono la vita anche gli stessi bambini. Io sono particolarmente toccata da questo argomento perché, proprio biograficamente, perché molti anni fa ho perso mia zia con lo stesso meccanismo, paradossalmente morta di parto proprio in Italia, però questo aspetto mi ha molto molto toccato e forse ha condizionato la mia vita di donna successivamente. Quindi credo di ben rappresentare nel bene e nel male questa campagna in cui credo molto e spero veramente di poter, insieme ad Amref e a tutti i testimoni di questa grande iniziativa, raccogliere l'attenzione, no, del pubblico internazionale per poter veramente fare qualche cosa di pratico. Ecco, a proposito di testimonianza e di esperienza, l'ho accennato in apertura, già la tua storia personale è quella, come si dice ora, ormai con una certa abitudine, di persone che rappresentano dei ponti, ma tra più culture. La tua storia ti porta dall'Africa all'Italia per legami appunto familiari su entrambe le sponde di questi due mondi, che poi sono lontani, ma su alcuni aspetti, e magari proprio ne parliamo un momento su quello delle donne, hanno anche molti elementi di vicinanza, però naturalmente ti permette di accedere anche su un piano linguistico. Questo è un disco in cui si sente l'inglese, si sente lo swahili, si sente naturalmente la lingua etiopica, quindi anche questo è una grande ricchezza. In maniera abbastanza anche naturale, non ho mai ragionato su quanto potesse convenire o meno fare un'operazione del genere. In questo momento storico e artistico, sicuramente una musica che guarda al mondo in questo modo forse è penalizzata da invece dal mainstream e dalle mode che ci vengono da oltreoceano, oltre che da oltremanica. Quindi è un po' una battaglia, forse, permettimi il termine, un po' culturale, anche quella di fare un disco e poi soprattutto pubblicarlo anche in Italia, composto da queste lingue. Sono lingue che alla radio spesso potrebbero sembrare un po', no? Già, a proposito, strane. Siccome questo è il terzo disco, sono strane, sono affascinanti e strane, soprattutto quando non le si capisce. No, ma in Italia, assolutamente, come tutte le cose strane che ci costringono magari a sforzarci di riflettere, ma in Italia, siccome questo è il terzo disco, parliamo dei due precedenti, come viene accolta una musica che, appunto, per definirla world music, ma comunque che è fortemente africana anche nel suo racconto? Ecco, beh, interessante quello che tu dici, proprio per parlare dei primi due dischi, che sono anch'essi caratterizzati da queste lingue lontane, no? Geograficamente, ma che sono lingue spesso parlate anche dalle comunità che sono presenti in Italia. Sì, questo concetto di stranezza, no? Dici lingue strane, più che lingue strane sono lingue estranee, e quindi la cacofonia, però effettivamente è così, più che strane sono lingue estranee e quindi vengono percepite come strane. Forse se noi superassimo questo binomio tra estraneo e strano, forse avremo una curiosità maggiore, intendo dire del pubblico più ampio, ad accogliere questi segnali del mondo in maniera molto più aperta, e quindi non sarebbe un po' strano sentire alla radio una canzone per esempio in swahili o in somalo o in amarico. Sempre meno strane, sempre più diciamo vicine, e sicuramente in musica ripartiamo proprio da da un altro brano tra qualche momento. Adesso abbiamo le informazioni per chi è in viaggio, poi torniamo con Saba Anglana per parlare di questa esperienza, di questa campagna, ma anche per parlare appunto di un periodo che non solo in Africa ma in Italia vede alcuni spunti, alcune riflessioni sul ruolo femminile. Ci arriviamo tra un momento. 30 minuti in cronaca. In a far community, in every corner of this land, my brothers are there. Eccoci qua, ancora buonasera da Gigi Donnelly. Dunque la voce di Saba Anglana e anche quella di gruppi che con lei cantano. Saba, stavamo parlando di lingue, qui già in pochi frammenti, ovviamente l'inglese. E poi cos'altro c'è su questo nostro sfondo musicale? Beh, cioè, ci sarà sicuramente il Kiswahili, che questa lingua parlata da circa 80 milioni di persone, quindi un bacino molto vasto di popolazioni che sono accomunate da questa lingua, in cui arrivano diverse influenze dall'India, dall'Arabia Saudita. La lingua dei mercanti dell'Africa orientale che si spinge, sì, giù. È un po' una koinè, no? Una lingua comune che di comunicazione, quindi questo ponte anche proprio linguistico. A me piace molto l'idea di aver ospitato nel disco molto su Kiswahili, anche perché poi ci tengo a sottolinearlo, come hai fatto tu stesso, i protagonisti anche di questo viaggio in musica sono anche degli artisti che ho incontrato, no? Sì, e sono parecchi. Sono tra l'altro, approfitto, dacci per cortesia l'indirizzo, perché ci sono una serie di clip. Parte sabaanglana.com, giusto, con la doppia A, Saba Anglana, entrambe le A, quindi vanno conservate. Già ci sono fotografie, immagini, ma insomma c'è stata una irradiazione importante sul web in questi giorni. Sì, c'è una esposizione mediatica, così si può dire, che mi fa molto piacere, proprio a dispetto del discorso di nicchia di cui parlavamo all'inizio. Quindi evidentemente mi fa piacere di essere un po' una specie di testa d'ariete, no? Per tutto un sottobosco poi di iniziative legate alla world music, se così vogliamo proprio dare una definizione, che ancora stentano a sorgere, no? alla comunicazione, quella più ufficiale, quella più virale, no? All'interno della rete, ma anche proprio dai mezzi di comunicazione come le radio, la televisione. Quindi molto bene, a me fa molto piacere sentire ancora queste lingue che ormai sono per me così familiari e così vicine, anche in canto, no? Cantate alla radio, così come nei web, così attraverso i video su YouTube, eccetera. E ce ne sono molti. Saba, non credi che ci sia anche intorno a questa maggiore sensibilità, anche, come dire, magari inconsapevole misura di un paese che sta cambiando a grandi passi? Due settimane fa qui abbiamo ospitato i partecipanti di una campagna che riguarda le seconde generazioni, che insomma una campagna che ha avuto un successo impressionante e che chiede cittadinanza in tempi direi civili a chi vive e cresce nel nostro paese. Beh, speriamo veramente che questi segnali della società civile vengano accolti, ma proprio nei fatti, anche da chi di dovere, no? Spesso sembra che addirittura non sia abbastanza vincere un referendum per poter far rispettare la volontà popolare, però come dicevi tu, e grazie per averlo sottolineato, c'è proprio una mobilitazione generale attorno a questi temi, una maggiore sensibilità, perché a dispetto della restituzione di attraverso i media anche quelli più ufficiali come la televisione, non si respira ancora l'aria di cambiamento che in realtà è in atto in questo paese, come se ci fosse una rappresentazione della realtà diversa, lontana dalla realtà stessa. È un paese che sta cambiando la faccia, sta cambiando abitudini, sta cambiando anche culturalmente proprio un percorso grazie a questi flussi migratori, grazie all'incontro di culture di cui io sono una piccola rappresentante anche, posso dire con orgoglio. Quindi sì, benvengono le seconde generazioni, soprattutto la battaglia che loro compiono, che io condivido in pieno, per il raggiungimento della cittadinanza molto prima rispetto a quanto invece è stabilito dalla legge corrente. E magari in maniera meno complicata. Ti avevo chiesto, avevo detto che avrei voluto parlare di donne. Allora un altro spunto che è solo in apparenza un altro tema. Ancora questa è la settimana, 7 giorni fa, il presidente Napolitano ha parlato della speranza di una donna al Quirinale. Nel frattempo, a metà settimana, c'è stato uno sceneggiato sulla violenza appunto subita dalle donne, che ha avuto un successo, un'attenzione impressionante. Stesso giorno Rosy Bindi, quindi un politico ben noto, dice: la crisi ha fatto tornare la donna a casa, o le ha impedito di uscirne per la prima volta. Insomma, in che momento siamo, a tuo avviso, di cambiamento, di crescita o in realtà di riflusso? Ma come dicevamo all'inizio, è più facile no, notare le contiguità rispetto alle differenze. Quindi ancora una volta in Italia siamo ancora davanti all'idea che sulla donna regga un po' tutto l'equilibrio anche familiare, così come succede in Africa stessa. Quindi non c'è una grandissima evoluzione rispetto a altri contesti culturali. Quindi in periodo di crisi è normale che ci sia un'involuzione, quindi la donna debba ritornare a casa perché non ci sono asili, non ci sono delle opere dal punto di vista proprio della società civile che riescano a favorire no, una vita anche professionale di una donna. Ecco che la donna, non riuscendo più a lavorare, a quei ritmi così assurdi che impone una mancanza di veramente di lavoro, quindi la precarietà eccetera, debba ritornare in casa per tenere i figli eccetera. Questo è molto triste da un certo punto di vista, perché è un po' un'involuzione, una perdita un po' delle conquiste che si possiedono. Un'involuzione che impoverisce anche il paese. Un dato così a memoria, un mese fa è uscita un'importante statistica da parte della Commissione europea: solo il 6% delle donne italiane hanno posizioni di vertice, in Francia sono al 22%, ma la cosa impressionante di quel dato è che erano al 12% 2 anni fa. È stata una scelta politica, le cose si possono cambiare. Ma torniamo, diciamo, in Africa, torniamo alla nostra ospite, torniamo a come la vita stessa ci mescoli completamente, inevitabilmente. Life kutuchanganisha. Life kutuchanganisha. Kila kila mtu aliumbwa ni Ecco, allora Saba ha voluto, come dire, almeno citare il brano che poi dà il nome al tuo ultimo lavoro e parla di mescolanza. Sì, Life Changanisha letteralmente significa la vita ci mescola. A me piace moltissimo dare questo segnale, perché mi sono trovata proprio caleidoscopicamente proiettata in realtà che mutavano volta per volta, che attraversavo i villaggi, incontravo nuovi personaggi, eccetera. E mi sentivo parte di un disegno nuovo ogni volta. Quando incontri l'altro, rinunci in maniera anche naturale a una parte di te per mettere in comunicazione quella parte con l'altra, a disposizione di un cambiamento che potrebbe essere anche momentaneo, potrebbe durare lo spazio di un incontro o lo spazio dell'ascolto di un disco, però è un'opportunità, una grande opportunità di crescita reciproca, ma soprattutto anche di invenzione, di reinventare se stessi, e come dire, anche divertirsi. C'è un lato molto ludico, io credo, molto divertirsi, molto ricreativo. Usiamola divertirsi. Questa parola. Grazie a Sabanglana, che ricordo www.sabanglana.com, ricordo anche www.amref.it, così potete seguire anche i contenuti della campagna. Grazie a Paolo Corleoni in regia. 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo. Buon fine settimana a tutti.